Magazine 24, la rassegna dei settimanali. A cura di Mauro Meazza. Buona giornata, bentornati a Magazine 24, la rubrica di Radio 24 nel corso della quale andiamo a pescare tra i settimanali, tra i periodici italiani e stranieri, le notizie più interessanti, gli articoli più curiosi e gradevoli da leggere. Cominciamo da un periodico che trovate in questi giorni con il Sole 24 Ore. Si tratta di 24, come sapete è il mensile che viene dato con il Sole 24 Ore, viene venduto con il Sole 24 Ore. È un magazine che si occupa soprattutto di tendenze. I lettori di 24 sanno che abitualmente questo mensile ha ogni mese una parola chiave attorno alla quale si sviluppano diversi articoli. La parola chiave di questo mese mi sembra adatta al periodo, estate, per molti di noi è già magari un momento di vacanza, per altri le vacanze dovrebbero essere comunque prossime, e la parola che è stata scelta dalla redazione di 24 è la parola inutile. Inutile non è una parola così inutile, in realtà, come si scopre dalla rivista stessa, analizzando un po' i vari contributi, perché si ragiona su cose che possono sembrare inutili, cioè non utili, non immediatamente utili, ma anche cose che possono avere una seconda vita, ad esempio il recupero dei rifiuti o altro ancora. Non vi voglio togliere il gusto di sfogliare la rivista, ma vi segnalo ad esempio la bella introduzione al tema che viene fatta da Roberto Casati. Roberto Casati è un filosofo delle scienze cognitive, dirige direttore di ricerca al Centro Nazionale di Ricerche Scientifiche all'École Normale di Parigi. Roberto Casati scrive: una delle prime domande senza risposta rivoltemi da mia figlia suonava così: ma perché facciamo tutte queste cose? Andiamo a scuola, facciamo la spesa, disegniamo, a cosa serve? Il sospetto dell'inutilità aleggia su tutte le pratiche umane, si tradisce nella richiesta di senso che a sua volta produce mostri concettuali e fattuali. Studiamo il latino, scrive Casati, e ci viene detto che lo facciamo per allenare un muscolo mentale che ci permette poi di affrontare anche le strutture, poniamo, della matematica. È vero? È difficilissimo stabilirlo, ma se così fosse, studiare il tedesco o il cinese avrebbe presumibilmente gli stessi vantaggi, più alcuni ulteriori come il dominio di una lingua che almeno qualcuno parla. Neuroscienziati illustrissimi si sono affannati a capire se la padronanza di uno strumento di musica o la pratica di un'attività artistica influenzi il successo scolastico in materie non artistiche, di nuovo in matematica, attività in cui i risultati sono abbastanza misurabili. Qualche timido effetto si è trovato, trattandosi, a differenza del latino, di causalità e non di semplice correlazione. Ma se anche fosse, si chiede Casati, insomma, riuscire in matematica è davvero una buona ragione per studiare il pianoforte? Allora, prosegue Casati, a volte le buone domande nascono dal rovescio di domande meno buone. La matematica non figura tra i programmi scolastici per permetterci di riuscire meglio in latino o in pianoforte, appunto. E se, come pare, passare un'ora al giorno davanti ad alcuni videogiochi migliora le capacità che ci permettono di riuscire in matematica, beh, non è detto che i videogiochi entreranno per questo nei programmi scolastici. Su questo però ho trovato, e qui interrompo l'editoriale di Casati su 24, una curiosa segnalazione sul Venerdì, ieri in edicola. Perché si segnala, infatti, Francesco Del Rico sul Venerdì segnala: controordine sui videogame, non fanno male, li usa la scuola. Non vorrei con questo dare un pessimo consiglio a tutti gli adolescenti e quindi anche danneggiare i genitori che cercano invece di limitare l'uso dei videogiochi, ma pare che negli Stati Uniti ci siano delle ricerche per sfruttare i videogiochi nella didattica. Scrive Del Rico sul Venerdì: mentre c'è chi continua a sostenere che i videogame fanno male, negli Stati Uniti qualcuno pensa di usarli per sostituire i libri di scuola. Ken Perlin, professore di informatica, che nel 97 ha vinto un Oscar tecnico per il cinema e dirige ora per l'Università di New York un Games Learning Institute, un istituto di apprendimento dei giochi, sostiene che i videogame generano un'esperienza di ciò che si studia, si tratti di una battaglia di Giulio Cesare o delle leggi della fisica, e divertono chi li utilizza. Il nostro scopo, riferisce sempre il professor Perlin, ripreso appunto da Francesco Delrico, il nostro scopo è dimostrarlo in maniera scientifica, lavorando con ragazzi tra gli 11 e i 14 anni. Altri centri di eccellenza, peraltro, condividono l'idea di Perlin, perché il Massachusetts Institute of Technology, l'MIT di Boston, ha messo online un programma con cui i bambini possono creare storie interattive per apprendere i principi della logica. Eppure un altro istituto scientifico propone un software per imparare a programmare giochi. Quindi c'è una sorta di apertura, quantomeno di interesse, se non proprio della scuola, ma diciamo di alcune facoltà, di alcuni studi, per vedere di sfruttare la passione e il trasporto che i videogiochi esercitano sugli adolescenti, ma anche sui non più adolescenti. Torniamo allora alle cose inutili, nell'accezione con cui la parola inutile viene utilizzata in 24 di questo mese. In realtà anche i videogiochi sono inutili, nel senso non hanno una utilità pratica. Torniamo alle cose inutili, dicevo, con la parte finale dell'introduzione di Casati, che dice: un'archeologia del fare ci svelerebbe una buona metà dell'orizzonte sconfinato dell'inutile. Inutile il latino, ma è inutile anche il pianoforte. Se studi l'uno o l'altro, non è per la loro utilità. L'altra metà dell'orizzonte dell'inutile viene poi dischiusa dalla tecnologia, che ha il dono di mettere a nudo, di rendere insensate alcune pratiche umane molto blasonate. Quindi inutile la faticosa organizzazione dei pensieri in cartelle con nomi, date, quando a ritrovare le cose è l'occhio disincarnato e instabile di Google. Inutile, scrive ancora Casati, affollare le scuole di computer quando questi sono già nelle tasche degli allievi sotto forma di telefonino. Quindi la conclusione di Casati è: forse ci sono delle cose che vengono frettolosamente definite inutili, ma anche le cose inutili poi generano, con l'apporto del la tecnologia, un loro ripensamento, perché appunto la tecnologia stessa ci aiuta a ridisegnare ogni momento la mappa dell'inutile. E allora vediamo qualche esempio di inutile in questa declinazione dell'inutile che viene fatta da 24. Ad esempio, parliamo di rifiuti, perché ovviamente i rifiuti sono quanto di più inutile si può immaginare, qualcosa di cui ci vogliamo liberare. Che succede dei rifiuti in generale nel mondo? 24 propone una serie di tabelle riassuntive. Vi segnalo ad esempio che c'è un po' un allarme per le proiezioni sulla produzione di rifiuti urbani in Cina, perché si stima che nel 2000, con una popolazione urbana di 456 milioni di persone, ci fosse una produzione di rifiuti inferiore a un chilo per abitante al giorno. Ma si teme, è il caso di dirlo, che già nel 2010 la popolazione urbana, essendo salita a 617 milioni, possa arrivare oltre il chilo per abitante al giorno, e la proiezione vuole che con 771 milioni di abitanti cinesi in centri urbani si arrivi a 1,30 kg per abitante al giorno. Siamo ancora lontani dalle produzioni dei paesi europei o degli Stati Uniti, ma la cifra, la tendenza di crescita è molto rilevante. Vediamo un'altra classifica interessante: quanta raccolta differenziata facciamo? Milano, ad esempio, si colloca bene in un confronto europeo, perché ad esempio per la raccolta di carta e cartoni viene la prima in Europa con 74 kg per abitante all'anno, ma Milano sta poco a ridosso con 67,8 kg per abitante l'anno. Molto più indietro Parigi, neanche 40 kg per abitante, Roma 36 kg per abitante e Londra a 22 kg per abitante. Molto molto più indietro Varsavia, 1,2 kg per abitante riciclato come carta e cartoni ogni anno. E questa rassegna poi di dati sui rifiuti ci porta direttamente a un altro contributo che troviamo sempre su 24: non riciclo, riparo, un contributo raccolto da Anna Lagorio. Ci parla di una mostra che si svolge ad Amsterdam fino al 30 di agosto. La mostra si chiama Repairing ed è un happening per bricoleur, ma anche per creativi delle riparazioni. È aperta fino a tutto agosto, quindi se qualcuno vuole sfruttare le vacanze estive motive per andare a visitarla, sappia però che, come riferisce 24, è molto molto affollata. Stiamo pensando di posticipare la chiusura, precisa la direttrice, perché l'evento sta riscuotendo un grande interesse, perlomeno a giudicare dalla fila all'ingresso. Come si entra in questa particolare mostra della riparazione? Chi porta un oggetto da aggiustare passa per primo. Gli altri aspettano con pazienza che si liberi un posto. Di solito, spiegano i curatori, ci occupiamo di futuro, ma è la prima volta che dedichiamo una rassegna a un'arte dimenticata come quella delle riparazioni. Abbiamo qui esperti di vario genere, ingegneri, falegnami, calzolai, ma anche designer di giocattoli e sarte. Le consulenze sono gratuite. Alla fine il visitatore torna a casa con il tostapane o con la valigia come nuovi. L'idea nasce dal gruppo Premsela, che è un gruppo che si occupa di design, un gruppo olandese, e che ha lanciato anche un manifesto della riparazione. Dice il direttore di questo gruppo: oggi appena rompiamo qualcosa siamo abituati a sostituirlo con un modello nuovo, ma sarebbe più interessante tornare ad avere un rapporto duraturo con gli oggetti. E quindi la conclusione di Lagorio, dopo abbuffate di arredamento e moda a basso costo, con aspettative però di durata prossime allo zero, la reazione è naturale e i segnali arrivano da più direzioni. In America, per esempio, il marchio Anthropologie, specializzato in abbigliamento femminile e in lifestyle, ha iniziato a offrire corsi gratuiti per fare upcycling, cioè recuperare il guardaroba. Ci sono le clienti che entrano con le borse piene di vestiti, sciarpe, cappelli, orecchini ed escono cariche di pezzi nuovi. Questo su 24, che trovate in edicola con il Sole 24 Ore. Magazine 24. Bentornati a Magazine 24, abbiamo parlato di cose inutili e allora proseguiamo un po' in questo filone andando a pescare da Storica, rivista di National Geographic, che è un mensile. Il numero di luglio 2009 ci segnala alcune cose diciamo legate a non a un'utilità pratica. Ad esempio, una delle risposte dalla storia è una rubrica che compare tutti i mesi su Storica. Si chiede come giocavano i bambini nell'antichità. Ora il gioco è per definizione qualcosa di non utile, cioè non deve avere un'utilità pratica, ma è qualcosa che sicuramente serve. È straordinario pensare, scrive la redazione di Storica in questa rubrica, che negli ultimi 3 millenni molte cose sono cambiate, la nostra vita quotidiana si è rivoluzionata, la vita media è triplicata, ma i bambini continuano sempre a giocare allo stesso modo. Nell'antico Egitto i piccoli delle classi più elevate potevano avere a disposizione giocattoli meccanici sofisticati. Si mostra poi nelle pagine della rivista un gatto di legno con bocca mobile che risale al 1500 avanti Cristo. Costruito appunto 3500 anni fa, le bambine avevano bambole di pezza ma con capelli veri. E nelle tombe egizie gli archeologi hanno trovato soldatini, quelle che noi possiamo chiamare case di bambola, e anche animali giocattolo. Non è certo però che questi fossero proprio dei giocattoli, forse erano dei modellini che il defunto avrebbe potuto usare nella sua vita ultraterrena. Però è stato invece appurato che sempre i bambini egizi si divertivano con un gioco della campana, una variante, un precursore del gioco della campana. In Grecia i bambini giocavano con la classica altalena, nella Grecia e a Roma, poi passando ai ragazzi più grandi, c'era ovviamente un uso di giochi d'azzardo, il gioco dei dadi ad esempio, e con tavole che sono arrivate fino a noi, tavole usate per il gioco dei dadi, tra l'altro divertenti perché venivano anche riempite di improperi per l'avversario. Che il gioco, scrive Storica, sia rimasto quasi esattamente uguale a distanza di millenni dovrebbe far riflettere sulla sua importanza e universalità. E allora, visto che stiamo parlando sempre un po' di queste cose non immediatamente utili, un'altra cosa di cui non si è mai capita l'utilità e di cui sempre riferisce Storica sono le statue gigantesche che si trovano nell'isola di Pasqua, un'isola famosa per questi Moai, questo è il loro nome, li avete sicuramente visti, sono un'immagine molto molto comune, statue gigantesche di cui nessuno ha mai saputo spiegare l'utilità. Ma la storia dell'isola, la storia del popolo che abitava l'isola di Pasqua appunto, è ancora più interessante interessante, se possibile, del mistero che avvolge le sue statue, perché spiega Storica che il giorno di Pasqua del 1722, l'arrivo dei primi esploratori olandesi sull'isola coincise con un momento già di degrado della popolazione indigena. Però negli anni precedenti invece l'isola era stata densamente abitata e aveva prodotto una civiltà molto importante, appunto quella che era stata in grado di produrre queste statue gigantesche. Nel XV secolo, riferisce appunto Storica, l'isola di Pasqua contava 15.000 abitanti, si erano però ridotti a circa 900 nel XIX secolo, a causa dell'epidemia e probabilmente anche di un errato sfruttamento del terreno, perché c'era un disboscamento selvaggio, e poi ci sono intervenute anche le deportazioni da parte dei colonizzatori occidentali. Interessante sapere, lo riferisce Paolo Manca in questo servizio sull'isola di Pasqua, che oggi quest'isola ospita quasi 4.000 abitanti. 2.000 sono discendenti di quegli 111 superstiti che erano stati trovati appunto dagli esploratori del 1700, altri 2.200 discendenti però si calcola che risiedano attualmente in Cile. Allora invece qualche cosa che aveva un'utilità sicuramente imponente in secoli passati, forse oggi un po' meno, la Grande Muraglia cinese. La Grande Muraglia sicuramente poteva essere utile appunto in passato per respingere gli attacchi del nemico, degli invasori, dei potenziali invasori della Cina. Con le guerre attuali forse è un po' più difficile immaginare che abbia un reale effetto deterrente, però i cinesi hanno ricalcolato la lunghezza della Grande Muraglia, si sono accorti che è più lunga di 2500 chilometri di quello rispetto a quello che si pensava. Il più colossale manufatto umano del pianeta, scrive appunto Storica, raggiunge quasi 9000 chilometri, è quasi un quarto della lunghezza dell'equatore, non 6300 come finora si riteneva. Come è stato attuato questo ricalcolo? Beh, ovviamente usando raggi infrarossi, sistemi GPS, si è scoperto che oltre alla parte costruita materialmente dall'uomo si sono sfruttate delle barriere naturali, fiumi, montagne e delle trincee, quindi vanno aggiunti ai 6300 chilometri che canonicamente si pensava costituissero la lunghezza della Grande Muraglia quasi 2500 chilometri, oltre 2500 chilometri per arrivare appunto a 9000 chilometri. E adesso invece vorrei fare una cosa un po' diversa. Di solito vi dico da quale rivista sto prelevando il brano che leggo, proviamo a fare il contrario. Ho trovato questo brano che mi sembrava molto interessante. L'industria automobilistica, leggo, ha legato la propria fortuna al principio irrinunciabile del rinnovamento annuale dei modelli. Parliamo di economia, parliamo di marketing. Rinnovamento attuale dei modelli, una politica che rende assolutamente imprescindibile l'orientamento al cliente. Di conseguenza, le case automobilistiche spendono ogni anno milioni di dollari in ricerche sui clienti. Ma il fatto che le nuove compatte vendano così bene nel primo anno indica che le ampie ricerche di Detroit, Detroit capitale statunitense dell'auto, non hanno mai rivelato ciò che volevano realmente i clienti. Le case automobilistiche americane non erano convinte che la gente volesse qualcosa di diverso da ciò che aveva a disposizione, finché non hanno perso milioni di clienti che si sono orientati su altri produttori di vetture più piccole. Ecco, la cosa curiosa di questo brano, che forse vi sembrerà scritto da poco se pensate alle vicende che hanno interessato Chrysler o General Motors, è che questo è un articolo del 1960. Questo articolo è un classico degli articoli di management, viene presentato in una collana che trovate con il Sole 24 Ore, i classici di Harvard Business Review. Il titolo di questo saggio di Theodore Leavitt è La miopia del marketing, ed è un lungo articolo, un lungo saggio che viene riproposto qui sia nella sua versione originale sia con la traduzione. Theodore Leavitt è stato professore professore emerito di Business Administration alla Harvard Business School di Boston, e aveva poi presieduto l'area marketing, aveva diretto lui stesso la Harvard Business Review. Per chi si occupa di marketing è un guru, come si dice nel gergo, ma sono assolutamente profetiche in qualche modo queste parole sue. Si legge tra l'altro sempre in questo saggio, che ripeto ha quasi 40 anni, Detroit è prevalentemente orientata al prodotto, non al cliente. Sapendo che il cliente ha dei bisogni che il produttore dovrebbe tentare di soddisfare, agisce di solito come se quel lavoro si potesse fare interamente con dei cambiamenti di prodotto. E quindi una sorta di miopia nella produzione dell'auto americana sembra esserci stata anche molti anni fa, prima diciamo di questa crisi finanziaria e poi industriale che ha colpito le major. Vi dico due parole su questi classici di Harvard Business Review che proseguiranno per una serie di uscite, 12 volumi in tutto. Ogni giovedì con il Sole 24 Ore sarà riproposto appunto un classico della letteratura manageriale e nei suoi vari aspetti. E chiudiamo con ricordo in qualche modo un tributo al re del pop Michael Jackson, perché come recentemente scomparso appunto in età anche giovane. E il ricordo di Jackson, Michael Jackson, è stata dedicata questa settimana alla copertina di Newsweek. Il significato di Michael, si chiede la copertina di Newsweek, qual è il suo significato. Ci sono tutta una serie di articoli dedicati un po' a quello che ha rappresentato Michael Jackson, che ovviamente per la cultura americana ha una influenza ancora maggiore rispetto a quella che possiamo avvertire noi in Europa. C'è anche un ricordo di Quincy Jones, che appunto è stato uno dei suoi primi produttori. L'articolo, uno degli articoli portanti di questo speciale dedicato da Newsweek, è stato ripreso dall'Espresso, che è da ieri in edicola, l'articolo di David Gates. L'Espresso lo ha rintitolato Addio King Jackson. Aveva rivoluzionato il pop, poi era diventato una maschera, un androgino dal colore indefinito, in un volto stravolto dalla chirurgia plastica. Viveva chiuso nel suo improbabile regno. Ricordo del grande artista, questo il sommario che introduce al pezzo di Gates, alla traduzione del pezzo di Gates, che potete trovare sull'Espresso. È molto deciso, molto diretto Gates nel suo esordio, perché dice: per qualche tempo Michael Jackson è stato il re del pop, definizione che a quanto pare venne coniata dalla sua amica Elizabeth Taylor, e con ogni probabilità è stato anche l'ultimo re del pop. Prima di Michael Jackson ci sono stati soltanto Frank Sinatra, Elvis Presley e i Beatles. Dopo di lui, è l'opinione di Gates, non c'è più nessuno. Il suo album Thriller del 1982 è ancora oggi un best seller insuperato, ma Jackson è stato prima di tutto il principe dell'artificio. Quale è stata la sua creazione più fantastica, la musica o il personaggio? In retrospettiva, molto di ciò che Jackson, scomparso il 25 giugno all'età di 50 anni, ha conquistato nella vita pare simbolico. E da qui appunto i simboli, cosa ha simboleggiato per l'America e un po' per tutto il mondo questa icona del pop che era Michael Jackson. Con questo il tempo per questa nostra puntata si è concluso. Io ringrazio Valeria Bernardi per l'assistenza in regia, Vittoria Mussini e Daniele Casagrande che mi hanno aiutato a preparare questo programma. Vi do appuntamento alla prossima settimana.